Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1861, al congresso di Firenze, le società operaie si dividono sulla politica. Che innalzato è l'albero, s'abbassino i tiranni. Nei giorni di fine settembre di questo 1861 a Firenze si è sentito spesso cantare quest'inno dell'albero, notoriamente giacobino. L'aria che si respira nonostante la presenza del re in città è stata di acceso dibattito politico. Anche nei caffè affollati di tanti visitatori richiamati dalla prima esposizione nazionale si sono accese discussioni, quelle più vivaci tra i protagonisti del nono congresso operaio italiano, il primo vero congresso nazionale delle società operaie di mutuo soccorso. Dei 250 delegati previsti se ne sono visti solo 199, ma è bastato a rendere il congresso il più agitato della giovane storia dell'associazionismo operaio, nato in Piemonte dopo la concessione dello statuto. Sono infatti finiti i tempi in cui i conservatori dominavano la scena, e poi la scelta di Firenze come sede congressuale ha rafforzato l'ala democratica e mazziniana che proprio nella città toscana ha fondato un anno fa la Fratellanza Artigiana. In apertura dei lavori si sono subito fronteggiate due tendenze. Da una parte i mazziniani decisi a portare il movimento operaio sul terreno dell'opposizione politica, dall'altra l'ala più conservatrice dei moderati decisi a mantenere le società operaie e i loro congressi fuori della lotta tra i partiti. Alla fine hanno prevalso i democratici grazie all'abilità di Francesco Guerrazzi e di Giuseppe Montanelli. La proposta votata segna infatti una svolta. L'Assemblea dichiara che le questioni politiche non sono estranee ai suoi istituti, quante volte le riconosca utili al suo incremento e consolidamento. È il popolo che re. Si è decisa anche l'unificazione delle società a livello nazionale, la rivendicazione del suffragio universale e della riduzione dell'orario di lavoro. I voti a favore sono stati 72, i contrari 30. Ma proprio qui è il problema. Fatti i conti, al totale mancano più di 90 voti. In larga parte si tratta di moderati che hanno lasciato il congresso. Il 6 ottobre la Società Operaia di Torino ha diramato a tutte le consorelle d'Italia un appello nel quale il congresso di Firenze è definito nullo e illegale e si propone la convocazione ad Asti di un'assemblea di tutte le società dissidenti. La scissione è nei fatti, anche se qualche giorno dopo una circolare delle società di Torino e Asti ha cercato di smussare i toni. Difficile però ricomporre la frattura. Il principio dell'unità della famiglia artigiana nel nome dell'Italia pare un ricordo. Paolo Piacenza, al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.